sensazione di benessere, prima è stata e adesso non c'è più. Coglioni, non ho più voglia di suonare. Nel mare.